in primo piano. Giovedì 13 gennaio, intanto devo dire che non troverete in edicola oggi il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore è in sciopero proclamato ieri dal comitato di redazione, ieri in tarda serata, dunque non troverete il Sole 24 Ore in edicola. Come detto, i titoli di apertura sono soprattutto sulla Fiat, Berlusconi con Marchionne, questo è il Corriere. Per Repubblica, con il no, giusto che Fiat vada via, è la frase di Berlusconi. Così La Stampa, Berlusconi, se vince il no, Fiat fa bene ad andare via. Il Giornale, Vendola, vai a lavorare, anche qui è la vicenda Fiat con ieri Vendola che si è presentata davanti ai cancelli di Mirafiori, è stato da alcuni contestato. Berlusconi con Fiat è polemica, insomma, vedete, declinata in vari modi, ma il tema di apertura per molti è la Fiat. Indignatevi, invece, il titolo del Fatto Quotidiano, che prende spunto da una vicenda che per la verità proviene dalla Francia, la vicenda di un librettino di 30 pagine scritto da un partigiano di 93 anni in Francia, che ricorda i valori per cui si è battuto e che in pochi mesi ha venduto 500.000 copie, è diventato un caso letterario davvero. E il Fatto dice, e in Italia invece nessuno si indigna più. Prendiamo spunto invece da questo successo letterario e questo è il titolo del Fatto Quotidiano, indignatevi. Ma come al solito qualche segnalazione anche curiosa, oggi ce ne sono tantissime. La prima la trovo da Repubblica, pagina 21, Genova, il bagno d'oro del prefetto, 100.000 euro per ristrutturarlo. Oh, queste sono le notizie che lo so vi mettono di buon umore, visto che si tratta di soldi vostri, soldi nostri, soldi pubblici. Ebbene, la vicenda la racconta Michela Bompani su Repubblica, per l'appunto bagno turco con illuminazione per la cromoterapia, vasca idromassaggio, rivestimento in marmo verde, bianco, sanitari serie lusso. Eccola qui, la ristrutturazione della stanza da bagno dell'appartamento del prefetto di Genova è costata 105.000 euro. A pagare tutto questo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per l'appunto noi. Il prefetto, per la verità, dice Francesco Musolino, chiederò spiegazioni, perché se davvero la cifra è questa avrei, e l'avessi saputo, avrei fermato l'esecuzione dei lavori. Mi pare davvero esagerata. I servizi igienici, è vero, andavano rifatti, era da 30 anni che nessuno li aveva ristrutturati. Altri però si sono occupati di farli realizzare, ma certo la cifra è troppo alta. Cosa c'è in questo bagno? Beh, bagno turco con cromoterapia, per l'appunto, con kit di coibentazione, generatore di vapore e poi i marmi, vasca idromassaggio asimmetrica, completa di rubinetteria, motori, pannello di comando, diffusori. Insomma, 105.000 euro. Eccolo qui, Genova, il bagno d'oro del prefetto, 100.000 euro, 105.000 rotti per la verità, per ristrutturarlo. E poi, che dire, qua c'è poco da ridere, c'è più da piangere, ma la vicenda la racconta l'Unità, pagina 23, Francesco Caremani, racconta la vicenda di un prete, Don Virgilio, il parroco che inneggia a Himmler. Himmler, per chi non lo sapesse, era uno dei massimi spietati esecutori dell'SS della Shoah. Don Virgilio Annetti è assurto agli onori della cronaca, scatenando un vespaio di proporzioni bibliche, e bisogna davvero usare questa parola, nonché la riprovazione della comunità di Rigutino in provincia di Arezzo e anche lo sconcerto della diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, per aver scritto questo nero su bianco nel suo bollettino Vita Parrocchiale, un periodico inviato alle famiglie durante le festività natalizie. Sentite lo sfogo del sacerdote, pubblicato. Non ne posso più. In poco meno di una settimana, tre furti si sono verificati in parrocchia ad opera degli zingari, che vengono prima a spiare e poi a portar via quello che trovano. Allora, senza tanti pietismi, torna in mente quell'uomo che tentò invano a suo tempo una vera pulizia etnica. Si chiamava Himmler. Dette quest'ordine, aggiungere ad ogni convoglio un vagone di rom. Sappiamo bene dove il convoglio era diretto. Verrebbe da dire, ma benedetto Himmler, perché uno solo invece che due? Tutto questo scritto da Don Virgilio Annetti sul bollettino Vita Parrocchiale, spedito poi alle famiglie durante il periodo del Natale. Ovviamente la diocesi si è immediatamente indignata, intervenuta, e al che Don Virgilio, nell'ultimo numero di Vita Parrocchiale, ha rettificato così: in un momento di sconforto ho usato espressioni gravemente offensive verso i fratelli Rom. Pertanto chiedo scusa ai miei parrocchiani e alla mia chiesa locale. E così pensa di aver smorzato il tutto. Don Virgilio, il parroco che inneggia a Himmler, ma poi chiede scusa, lo trovate sull'Unità a pagina 23. Da cosa ripartiamo? Da altri nomi che sono oggi sui giornali, che sono presenti in questa lista Falciani, che hanno conti in Svizzera. Volete saperli gli altri nomi? Ci sono sui giornali. Ancora nomi ci sono sui giornali contenuti in questa lista Falciani. Hervé Falciani è questo ex dipendente del colosso elvetico, la banca HSBC, che ha trafugato nella sua banca in maniera sicuramente disonesta un elenco di correntisti e poi li ha venduti. E adesso stanno indagando varie procure di mezza Europa, anche di mezzo mondo, tra cui 120 procure in Italia, perché ci sono anche molti italiani. Ieri abbiamo fatto dei nomi che c'erano e che hanno suscitato il dibattito e anche il tema nel nostro sondaggio. Per esempio, ci sono le attrici Stefania Sandrelli con la figlia Amanda Sandrelli. Tanti altri nomi, faccio quelli di oggi, poi ne parleremo alle 8:30. Allora c'è Claudio Panatta, che è il fratello minore, anche tennista, un po' meno famoso, un po' meno vincitore, del più celebre Adriano Panatta. Poi c'è, vediamo dal Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini, il tennista e il patron della radio. Nella lista dei conti all'estero c'è anche Edoardo Montefusco, un imprenditore, diventato il fondatore di una radio importante, RDS, uno dei network italiani. Ci saranno gli eredi dello stilista Egon von Fürstenberg, che è morto nel 2004, era in questa lista e dunque gli eredi dovranno rispondere ai magistrati. Ci sono industriali Claudio Cavazza, presidente di Sigma Tau, vicepresidente di Farmindustria, Giovanni Auletta Armenise, azionista della Banca Nazionale dell'Agricoltura, di cui fu presidente fino al 1985. Anche lui, scrive il Corriere della Sera, titolare di un conto per la HSBC. Ci sono molti, secondo Fiorenza Sarzanini, molti industriali anche della Brianza, del Comasco, della provincia di Varese, cioè quelle zone peraltro geografiche confinanti con la Svizzera. Insomma, anche per Repubblica, lista Falciani, indagano 120 procure, è la fotografia dell'Italia che evade. Questo è un virgolettato attribuito a uno degli investigatori. Che viene scritto da Carlo Bonini. C'è sul giornale in prima pagina il commento di Mario Giordano. Mario Giordano, i miti snob della sinistra col tesoretto in Svizzera. Tu quoque, Stefania? Guardatela bene, davvero la Sandrelli in cima alle liste di coloro che portavano i soldi all'estero? C'è proprio lei, la grande attrice immortalata da Bertolucci e Virzì, Monicelli e Trintignant. Il meglio dei registi intellettuali dell'ultimo secolo. L'ultimo a immortalarla, per la verità, è stato Hervé Falciani, che però non è un regista, nemmeno un intellettuale, è solo un impiegato di banca che non ha usato la cinepresa, ma un computer che non ha detto ciak, ma tiè, e però ha messo su un bel cinema lo stesso, a giudicare dagli effetti speciali. Come minimo, merita l'Oscar alla fotografia. E il giornale la punta così: i miti della sinistra con il portafoglio a destra, i soldi in Svizzera, e mette proprio Stefania Sandrelli con Amanda, la figlia, a pagina 2 in foto. C'è anche un'intervista al colonnello della Guardia di Finanza, a Rosario Massino o Massino, che era sull'aereo che nel maggio scorso portò in Italia dalla Svizzera il dischetto con i nominativi della cosiddetta lista Falciani, e che dice: cosa vuol dire essere su quella lista? Essere considerati, fino all'accertamento del contrario, presunti evasori fiscali. Qualcosa di grave, quindi? Non necessariamente. I depositi potrebbero essere leciti. L'onere della prova, però, spetta alle persone in lista. Sono loro che devono dimostrare la regolarità dei loro conti all'estero. Se non verranno a loro da noi, andremo noi da loro entro la fine dell'anno. In questa lista cosa c'è? C'è di tutto, dalla singola persona fisica con 300 milioni, fino a decine e decine di titolari di conti dormienti, cioè a deposito zero. Scusi, che se ne fa uno di un conto vuoto in Svizzera? Ottima domanda, risponde il colonnello della Guardia di Finanza. È la stessa che ci stiamo facendo noi. Ovviamente ci sono le smentite, per esempio, le smentite o comunque, non so, Claudio Panatta al Corriere della Sera, un po' ridacchiando, dice c'ho delle somme ridicole, forse 5.000-10.000 euro, una specie di piccolo salvadanaio. Risponde oggi anche, dopo che ieri sera pare molto arrabbiato, Cesare Panbianchi, il leader di Confcommercio a Roma, intervistato da Repubblica, pagina 15, dice: io ero lì per investire, altro che evasione fiscale, non scherziamo, a casa mia certe operazioni hanno un altro nome, internazionalizzazione. Avete presente quando qualcuno porta la propria esperienza imprenditoriale all'estero? Ecco, ho fatto questo, ho investito. Io sono andato in Svizzera a Crans-Montana nel 2000, non con una valigia piena di soldi, ma per investirli. Ho investito in una spa d'eccellenza, perché Crans-Montana è il top delle stazioni di sci. C'era l'hotel Golf dove ho costruito il mio centro, il più lussuoso della zona. Mi hanno chiamato perché nel benessere sono tra i migliori. Operazione da quanti milioni di euro? Non vedo perché dovrei dirlo. Ma lei ha aperto un conto alla HSBC? Certo che l'ho aperto. Per realizzare la SPA ho costituito in Svizzera una società, la SB International, di cui ero il presidente del consiglio d'amministrazione, controllata a sua volta da una società italiana, Sport & Beauty. A quel punto ho aperto il conto con la HSBC. Era più facile gestire le cose, ma tutto è stato fatto alla luce del sole. E allora è il tema appunto del nostro sondaggio, ne parleremo. Secondo voi cosa vuol dire essere in questa lista? Voi considerate colpevoli? Perché c'è anche l'aspetto di chi dice è una gogna pubblica quella di mettere allo sbaraglio dei nomi di persone che hanno un conto all'estero. E beh, questo cosa vuol dire? Può voler dire tante cose, non necessariamente quello che spesso viene fatto passare dai giornali, che vale a dire essere degli evasori fiscali. Comunque ne parleremo alle 8.30, di altri temi, beh insomma, come detto molti giornali aprono sulla vicenda Fiat, oggi si aprono le urne, si dice così, per il referendum, oggi e domani, domani sera dovrebbero esserci i risultati di Mirafiori. Sicuramente fa molto discutere sui giornali la frase di Berlusconi: la Fiat, se vincerà il no, è giusto lasciare l'Italia, tanto che l'Unità mette in prima pagina Berlusconi col titolo l'anti-italiano. Per la verità anche il Secolo d'Italia, che è l'organo politico di Fini, dei finiani, ora pure anti-italiano, si chiede in prima pagina l'organo Secolo d'Italia per l'appunto. Come detto, l'Unità mette il titolo l'anti-italiano con la foto di Berlusconi e Stefano Fassina, che è del Partito Democratico, economista, nell'editoriale di pagina 2, scrive: un premier irresponsabile. Li abbiamo visti ieri con Angela Merkel, da una parte la signora che, pur illudendosi di fare da sola in Europa, tenta di difendere il modello renano, mentre il nostro misero presidente del Consiglio, che sostiene la Fiat nell'abbandono di Torino in caso di vittoria del no alle carrozzerie di Mirafiori. Nessun capo di Stato al mondo avrebbe mai detto che le imprese e gli imprenditori italiani avrebbero buone motivazioni per spostarsi in altri paesi. Così Stefano Fassina. Mentre vi segnalo, tra i tanti articoli, un'intervista al vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei, che parla al Messaggero in prima pagina, in un'intervista rilasciata a Umberto Mancini. Scrive, dice: il contratto lo fa Confindustria e sarà sempre così per tutte le imprese italiane. Le deroghe per Mirafiori sono legittime e servono a dare competitività. Del resto, dice Bombassei, rinunciare alla principale industria del paese per una pausa meno lunga di pochi minuti è una vera assurdità. Qui è in gioco il mantenimento in Italia di una fabbrica e di un'impresa che dà lavoro a migliaia di persone, ma qualcuno come la FIOM e parte della CGIL non sembrano capire. La posta in gioco è molto alta, dice Bombassei. Le richieste della Fiat sono assolutamente normali e alla fine credo che prevarrà il buon senso, ma fa male sentire argomentazioni della FIOM, delle parti più estreme della politica. Con la crisi del lavoro così forte bisognerebbe comprendere, fare un passo indietro, abbassare i toni. Per la verità, un altro che si è schierato e si schiera totalmente con la Fiat è il sindaco di Firenze Matteo Renzi, che sapete è uno degli astri emergenti del Partito Democratico. E allora eccolo qui, fa un'intervista all'Unità pagina 10 e lui, che è solito essere molto tranchant, inizia così: io sto con Marchionne. La Fiat fa un investimento sul proprio futuro e per la prima volta non chiede i soldi allo Stato e agli italiani. E al che Marco Bucciantini, che lo intervista, chiede: ma i diritti non sono retaggi? Guardi che io non voglio mica la fabbrica cinese, però questi accordi li hanno firmati e praticati 20 anni fa in Germania. E poi, se c'è davvero un ricattatore, sapete chi è? È la globalizzazione. Non è Marchionne che minaccia, è il mercato che decide cosa conviene fare e dove. E infine mi voglio togliere un sassolino, se lo tolga, su Marchionne. Beh, su di lui, dice Renzi, ha investito Barack Obama. Decise di aumentare i fondi pubblici per la Chrysler proprio in conclusione dell'accordo con la Fiat. È un reazionario anche Obama? Chiede Matteo Renzi. Mentre sul manifesto, che titola Torino Italia, beh, molto efficace il titolo, anche legato appunto alle parole andare o non andare via dall'Italia, Torino Italia, c'è una lettera in prima pagina che Rossana Rossanda, vale a dire uno dei fondatori del manifesto, invia in prima pagina all'onorevole Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica. E il titolo è proprio questo: sulla Fiat, lettera al presidente della Repubblica. E cosa chiede Rossana Rossanda? Beh, le chiedo, da semplice cittadina che ha avuto il privilegio di seguire il lavoro dei costituenti, di voler intervenire con un richiamo al Paese su quel che la Costituzione prescrive in tema di diritti sindacali. Vale a dire l'articolo 39 e 40, che poi analizza Rossana Rossanda, della Costituzione. Non sono in grado di sapere, scrive Rossana Rossanda, se sia ammissibile che un'azienda privata possa obbligare i dipendenti a un referendum che, se proposto su scala nazionale, la Corte Costituzionale non ammetterebbe, ma mi permetto di chiederle se giovi al clima politico che lei auspica che nella maggiore azienda italiana si indica un referendum tra lavoratori su un accordo con la proprietà che preveda la sospensione di alcuni diritti sindacali di fondo. Sarebbe prezioso che lei, la cui imparzialità nei confronti delle diverse parti sociali nessuno può negare, intervenisse su questo aspetto decisivo dei diritti indisponibili del cittadino. E poi conclude Rossana Rossanda la sua lettera al capo dello Stato: voglia scusare l'irritualità di questo mio rivolgersi alla sua persona e, in attesa di un suo cenno, la ringrazio finora per l'ascolto. Insomma, questa è la situazione Fiat. Sullo sfondo c'è ovviamente la politica, io non l'ho tralasciata, ma è tutto appeso a questo giorno, il giorno oggi, qualcuno dice del giudizio, il giorno in cui la Consulta si esprimerà sulla Corte Costituzionale. Ma d'altronde non è che sui giornali trovate molto di nuovo, cioè Berlusconi ha detto i giudici sono un'anomalia, e lo spiegherò in TV, anche questa non è, o contro di me processi ridicoli, insomma non sono dichiarazioni innovative. I giudici sono una patologia, così titola per esempio La Stampa a pagina 8, andrò a dirlo in TV. In tutto questo ci sono la cosiddetta area dei responsabili. L'area dei responsabili sono i 20, 21, 19, 24, non si capisce, che dovrebbero puntellare la maggioranza e che si starebbero mettendo insieme in Parlamento. Mentre al Senato c'è un giallo, perché Fini rischia, con il suo gruppo Futuro e Libertà, di perdere tutto il gruppo. Il Cavaliere prepara le elezioni, se bocciano lo scudo la campagna è fatta. Questo è l'articolo forse più interessante di retroscena della politica, lo trovate su Repubblica, Francesco Bei a pagina 6, e cioè Berlusconi che avrebbe detto faremo la campagna elettorale spiegando agli italiani che un manipolo di magistrati tiene in ostaggio il paese da 15 anni, e poi un Berlusconi che avrebbe, usiamo sempre i condizionali di questi retroscena, reagito così all'intervista ieri di Fini che propone un patto nazionale. Ma come, avrebbe detto Berlusconi, se ci troviamo in questa situazione è proprio per colpa sua e di quelli che lo hanno seguito, e alla faccia tosta di venirsi a proporre come il salvatore della patria. E intanto lavorano che cosa? I gruppo, l'area dei responsabili, vale a dire, sapete, per puntellare quella maggioranza di 3 voti ottenuta nella fiducia si cerca di allargare ad altri onorevoli, ad altri deputati. Secondo il Corriere della Sera, Camera quota 24 per il gruppo dei responsabili, per la verità 19 sono quelli certi, ma ci sono i corteggiamenti. Tra l'altro ecco i nomi: Ferdinando Latteri e Aurelio Misiti del Movimento per le Autonomie. E c'è anche, a me stupisce un po' vedere tra i candidati al corteggiamento, cioè che potrebbero appoggiare questa maggioranza, Luca Barbareschi, finiano. Sembra strano, uno che ha detto parole molto molto dure nei confronti di Berlusconi fino a pochi giorni fa, uno dei finiani che mi sembrano più vicini a Fini, e invece Barbareschi viene citato dal Corriere della Sera come uno dei possibili pronti a lasciare i finiani e appoggiare la maggioranza. Come detto, c'è anche questo giallo al Senato, perché c'è il malumore segnalato da alcuni giornali, dal Corriere ma anche dal Giornale a pagina 4, del senatore Menardi. Il senatore Menardi è un finiano e, secondo i rumors, potrebbe lasciare i finiani e passare a un gruppo misto, comunque appoggiare la maggioranza. Perché è importante? Perché i finiani al Senato sono 10 i senatori, e se dovessero scendere a 9 si scioglierebbe il gruppo, perché il minimo dei senatori per avere un gruppo parlamentare o no autonomo al Senato appunto è 10. Se fossero in 9 dovrebbero confluire nel gruppo misto, perderebbero, scrive Francesco Kramer sul Giornale, tutta una serie di macchina burocratica, per cui addio soldi per l'ufficio stampa, la segreteria, tutto il resto. Non avrebbero cioè l'autonomia di un gruppo, ma sarebbero nel gruppo misto. Fini perde pezzi, rischia di sparire anche al Senato. Questo è il titolo del Giornale a pagina 4. Vabbè. E chi invece è in una giornata sicuramente decisiva, perché aveva dato la sua deadline entro giovedì, è il sindaco di Roma Alemanno, che è alle prese col rimpasto della giunta dopo aver azzerato tutti gli assessori. Ebbene, Alemanno, il rimpasto che non c'è, questo lo leggo dal Corriere della Sera, i no di Monorchio e Luigi Abete. Avrebbe tentato di coinvolgere il presidente della BNL, Luigi Abete, affidandogli l'assessorato al bilancio. Un Abete che, racconta il Corriere della Sera, ha risposto con un no tra lo sbigottito e l'ironico. Poi Andrea Monorchio sarebbe stato contattato: no grazie, ho troppo da fare. Questa sarebbe stata la risposta di Monorchio: il mio nome viene fuori sempre a Palermo, in Campania, a Roma, sarà perché senza peccare di immodestia ho fatto bene il mio lavoro. Sta di fatto che domani Alemanno è atteso da un'udienza con il Papa. Aveva detto: voglio presentarmi all'udienza col Papa, con la nuova giunta, e per questo aveva dato la deadline, quella di oggi, di giovedì, per la nuova giunta comunale. Ma cosa ha detto Alemanno? Domani, come andrò col Papa, andrò con la mia fede. Insomma, questa testimonianza che forse entro oggi non ce la farà. Sulle indiscrezioni, sul voto anticipato, bisogna essere pronti alle elezioni, sempre. Questo ha risposto Alemanno. Insomma, situazione abbastanza caotica a Roma per quel che riguarda il comune. Oh, veniamo ad altre segnalazioni di altro taglio che trovate sui giornali molto curiose. Intanto un dibattito che è nato da un saggio pubblicato dal Wall Street Journal, e che è uno dei saggi che sta spopolando su Facebook con oltre 200.000 contatti, e che dà spunto al Corriere della Sera per fare un'intera pagina. Il tema è questo: è giusto essere duri con i figli seguendo il metodo Shanghai? Tutto nasce da una professoressa di cinese, che in realtà da anni vive negli Stati Uniti, che dice: io ho educato così le mie figlie, col metodo Shanghai. Cioè, avete presente la mamma chioccia italiana? Ecco, tutto il contrario, la mamma tigre cinese. Scrive Giuliana Ferraino: il metodo cinese è fatto di disciplina, rigore, severità all'ennesima potenza, un decalogo che include non invitare, andare dagli amici a giocare, non dormire fuori casa, non guardare la TV, non giocare ai videogame, non lasciare ai figli la scelta delle attività extrascolastiche, pretendere il massimo dei voti. Volete un esempio? Per esempio, questa bambina, la figlia di questa signora, non riusciva a fare un pezzo al pianoforte a 7 anni, un pezzo molto complicato di Jacques Ibert, Il piccolo asino bianco. Cosa ha fatto la madre? È diventata una guzzina. Nasconde la bambola. Promette di regalarla pezzo a pezzo all'esercito della salvezza se la bambina non imparerà il piccolo asino bianco alla perfezione entro un giorno. Minaccia di farle saltare pranzo e cena, di non farle regali di Natale, di abolire le feste di compleanno. La offende chiamandola pigra, codarda, smidollata e patetica. La figlioletta ovviamente incassa, ma alla fine impara questo pezzo difficile al pianoforte. E il tema è questo: è giusto essere così duri con i figli seguendo il metodo Shanghai? Si è acceso un dibattito negli Stati Uniti, chi dice è una vera dittatrice o chi dice invece no, io faccio il suo bene, la stimolo, sono dura all'ennesima potenza, sono una mamma tigre per ottenere il massimo dalla mia figlia. Oh mamma mia, vabbè, e poi voglio segnalare da Repubblica, la trovate un po' su tutti i giornali, la vincitrice di una causa, la presentatrice della BBC Miriam O'Reilly, che una volta le dissero: guarda, potresti mettere lo spray sui capelli perché cominciano a diventare un po' grigi. Un'altra volta il produttore l'aveva avvertita: guarda che è un po' di rughe. Alla fine le ha detto: forse è l'ora del Botox. Alla fine la BBC l'aveva tolta dal video. Questa signora, Miriam O'Reilly, 51 anni, ha fatto causa perché ha detto anche le donne con le rughe possono andare in TV, e la causa l'ha vinta. Alla fine in lacrime ha detto: è una discriminazione sulle donne oltre 40-50 anni in TV, una vergogna che abbiamo sconfitto. Con questa causa, dopo 25 anni dentro la BBC, credo di meritare di essere giudicata in base alle mie capacità professionali e non in base al mio aspetto. In TV anche le donne con le rughe, i giudici fanno cambiare idea alla BBC, e certo ora si profilano anche un'ondata di cause dello stesso genere, racconta Repubblica, cioè di conduttrici donne, succede sempre alle donne, non agli uomini, che sono state escluse dal video, arrivate a una certa età, perché la rughetta di qui, il capello bianco di là, e ora si preparano a dare battaglia. Allora, che ne pensate della lista Falciani? Chi c'è dentro e che ha i conti svizzera, secondo voi, è colpevole? È il tema del nostro sondaggio, ne parliamo più avanti, ora il GR.